Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. È l'inizio di una nuova settimana da passare assieme ad Eclettica e a Giulio Caperdoni, l'ultima settimana di novembre. In questo tardo pomeriggio, inizio serata di una giornata in cui sarete stati sicuramente impegnati o nello studio, o nel lavoro o in altro. Giulio Caperdoni che non solo vi tiene compagnia con la musica ma anche con gli sprazzi cinematografici, si prosegue con la trilogia, se vi va bene questo approccio. O se non vi va bene, sapete che avete sempre a disposizione Giulio at RadioRockFM.com per dare il vostro parere, e si prosegue anche con le letture degli incipi. Una sera d'estate, Mrs. Edipa Maas, tornando a casa da un ricevimento Tupperware, dove la padrona di casa aveva forse largheggiato un po' con il kirsch nella fonduta, scoprì di essere stata nominata esecutore, o forse, più esattamente, esecutrice testamentaria dei beni di un certo tal Purse and Variety, RAS delle agenzie immobiliari californiane, il quale era stato capace di mangiarsi 2 milioni di dollari a tempo perso, ma aveva non di meno lasciato crediti tanto numerosi e imbrogliati da renderne il riordinamento un incarico più che onorario. Questo era l'incipit dell'incanto dell'849 di Thomas Pynchon. Rock and roll. police, Biff! You're gonna match up the bullet with that gun! Gad, I own the police! Besides, they couldn't match up the bullet that killed your old man! You son of a... I suppose it's poetic justice. Two McFlys with the same gun! Look at all them great big old flies buzzing them all around my head. People look at me, they said, that cowboy must be dead. Well, I'm not. Don't you know I'm just gonna sit right down. Cover degli R.E.M. in eclettica in questo periodo, ma perché è uscito un tributo a Automatic for the People della band di Athens, dal quale andiamo a estrarre di volta in volta i brani che ritengo più interessanti. Fino ad ora ci eravamo dedicati a Everybody Hurts in versioni diverse, ma quest'oggi ci siamo ascoltati Drive nella versione della band di Finn Andrews, ovvero sia The Veils. Poi è stata la volta degli Heavy Trash, che abbiamo cominciato ad ascoltare con la loro nuova prova discografica dalla settimana scorsa. Heavy Trash che non sono nient'altro che John Spencer e Matt Verta Ray. Heavy Trash che ci siamo ascoltati con Outside Chance. Ed ora invece è la volta di un nuovo album, un album tutto italiano che però viene distribuito in tutto il mondo, Unhip Records per quanto riguarda l'Italia, ma anche per quanto riguarda l'Europa, e Deep Elm per quanto riguarda gli Stati Uniti e l'Inghilterra. Sto parlando dei bolognesi Saddlefish, che sono usciti con il nuovo album dal titolo Oh Dear, del quale andiamo ad ascoltare Summer Drops. On a warm frontier. Oh and oh and palle di neve han disegnato i loro archi volanti, costellando i fianchi dei capanni non meno che quelli dei cugini, involando copricapi nel vento frizzante soffiante dal Delaware. Le slitte sono sospinte al coperto e i loro pattini asciugati e ingrassati con cura, le scarpe deposte nel vestibolo sul retro, una calata con le calze ai piedi sulla grande cucina, infinalizzato fermento fin dal mattino, interpunto dai tinnenti coperchi di vari bricchi e pentole fragranti di spezie per pasticci, frutta sbucciate, grasso di rognoni, zucchero caramellato. E i fanciulli, sempre quasi di volo, tra gli schiaffi ritmati di cucchiaio con pastella, avendo ghermito per blandizie o rapina quanto loro possibile, proseguono, come ogni pomeriggio di questo nevoso avvento, verso una stanza accogliente sul dietro della casa, arresa, da anni ormai, ai loro spensierati assalti. Questo era l'incipit di Mason e Dixon, di Thomas Pynchon. That's right, Doc. November 12th, 1955. Unbelievable that old Biff could have chosen that particular date. It could mean that that point in time inherently contains some sort of cosmic significance, almost as if it were the temporal junction point for the entire space-time continuum. On the other hand, it could just be an amazing coincidence. We'll be right back. da Seattle era questa la canzone dedicata alla birra belga e alle ragazze cattoliche. Infatti erano i Siberian con Belgian Beer and Catholic Girls. Prima ancora, Tiago La is Losing the Plot, artista di cui ho parlato abbondantemente settimana scorsa, quindi non vado a spendere altre parole. Invece le spendo per My Bloody Valentine. Avrete letto, e se non l'avete letto lo state per scoprire in questo momento. Hanno deciso di riformarsi. Un nuovo disco e nuove date live. Con i My Bloody Valentine ho un particolare legame, quindi non so se riuscirò a mantenere l'impegno che ho preso con me stesso di non andare mai a vedere concerti di reunion. Con i Pixies sono riuscito a resistere, con loro non so se ce la farò. Andiamo ad ascoltarci uno dei loro pezzi forti, era il 1991, l'album era Loveless e questa è Only Shallow. Oh,